Allora faccio un breve riassunto della prima lezione. Abbiamo fatto una introduzione all'antropologia culturale, abbiamo visto il concetto di antropologia e di cultura, abbiamo visto come la traduzione di antropologia è articolata, la mia versione è quella del discorso degli esseri umani, i discorsi degli esseri umani, o come ha suggerito uno studente, tra gli esseri umani, che è forse ancora più corretto. Mi suggerivo il degli sia come genitivo oggettivo che soggettivo. Il tra, secondo me, introduce proprio il concetto di dialogica e di intersoggettività, che si riferisce appunto al concetto di cultura o culture. Ricordo che ho cercato di presentare un tipo di ragionamento anche al plurale, cioè ragionamenti ai tanti plurali possibili, e come il concetto di cultura, che è il concetto centrale dell'antropologia culturale, appunto, non è riassunto da come tradizionalmente cultura si intende, non so, per esempio all'università, la letteratura, le grandi opere d'arte, eccetera, dove si affronta anche queste questioni, ma mi ha suggerito tre concetti: il pensare, il sentire e l'agire, che sono tre concetti che a mio avviso possono introdurre a questa articolazione legata a leggende, miti, visione del mondo, comportamenti. Ho insistito molto sul linguaggio del corpo, e questo aspetto del linguaggio del corpo è relazionato al sentire. Vi ho sottolineato come tipo di antropologia, tipo di cultura che a me piace sviluppare, è molto legata alla dimensione del sentire. Questo aspetto del sentire è legato anche a una grande tradizione in Occidente, che è il concetto di estetica, che appunto non è la riflessione sul bello, l'estetica, bensì è proprio una ricerca sul sentire. E il sentire, a mio avviso, è importante perché incrocia e sviluppa e rielabora le dimensioni, diciamo così, razionali e irrazionali, quelle sensibili e quelle logiche. Quindi per me il sentire afferma una visione che è meno dualista di quella classica, appunto, qui c'è la dimensione istintiva, poi c'è la dimensione irrazionale e poi inizia una dimensione appunto razionale. Queste distinzioni, questo dualismo, vi ho sottolineato in diverse occasioni, che la logica del dualismo è una logica, a mio avviso, molto arretrata e molto bloccata, che favorisce delle schematizzazioni che ahimè sono vincenti molto facilmente, perché il pensiero binario, le logiche dualiste, la politica dualista, la morale dualista, facilmente riassume in contrapposizioni amico-nemico, bene-male, natura-cultura, organico-inorganico, pubblico-privato, ecco, tutte distinzioni appunto dualiste che in parte appartengono a una fase storica precisa, e in parte è qualcosa di un po' più complesso, no? E questo aspetto complesso, spesso, vi ho detto, attenzione qui, che si riferisce anche al mito. Il mito non si può riassumere, che ne so, con un modo di produzione, con l'era industriale, con il capitalismo. Il mito è qualcosa di più profondo, di più oscuro e luminoso nello stesso tempo, che cerca di dare delle soluzioni a dei nostri problemi esistenziali che di volta in volta ci si presentano. Quindi, diciamo, questo tentare di sviluppare un'antropologia post-dualista, o oltre, riesco a usare il termine oltre il dualismo, un'antropologia oltre il dualismo, è quel sentire, a mio avviso, prefigura un tipo di, non solo di sensibilità, ma anche appunto di un nuovo tipo di razionalità, un nuovo tipo di razionalità che in parte vi ho citato ieri, a mio avviso si potrebbe basare su un nuovo concetto di identità, no? Il concetto di identità che si pluralizza nei comportamenti, nelle nostre storie di vita, usando non solamente le tecnologie, gli spazi metropolitani, le arti, le musiche, favoriscono molto prevalentemente questo desiderio di andare al di là appunto dei dualismi, questo desiderio di sviluppare un'identità plurale, un'identità e una soggettività metamorfica che si metamorfizza in altro. Ecco, questo aspetto secondo me il sentire riesce a dare, insomma io ci credo profondamente su questa prospettiva del sentire, che comunque questo sentire a mio avviso si connette molto bene al feticismo visuale, di cui parleremo diciamo nella seconda parte, come vi ho detto, una prima parte più teorica dell'antropologia, meno storia più per punti, una seconda parte. Questo aspetto di per punti mi permette, scusate, di dire anche un'altra cosa che non vi accennavo ieri. Invece di fare tutta la storia dell'antropologia, vi presento frammenti. Il frammento e l'assemblaggio dei frammenti è, a mio avviso, un tipo di prospettiva adatta alla contemporaneità. Quindi il frammento ci permette di transitare tra autori e tra tempi e spazi anche differenti. E questo frammento molto spesso è visto come una cosa arretrata, perché spesso nelle scienze sociali si preferisce una dimensione di totalità, di sintesi, di globalità, no? Qualcosa molto più, diciamo così, organico. Io sono molto diffidente di tutti gli aspetti appunto olistici, totalizzanti e via seguito, e questo transitare tra frammenti mi permette di inserire nella stessa produzione, diciamo così, metodologica, un tipo di prospettiva che a me piace, che va al di là, come tenta di andare al di là dei dualismi e degli universalismi, perché il frammento non è interessato agli universalismi, che è un altro concetto che vanno sottoposto a critiche. Quindi questo aspetto dell'identità sarà uno dei temi, no, che attraverserà il corso, infatti l'abbiamo già introdotto ieri rispetto a come si modifica la soggettività di tante persone nei contesti metropolitani, ma non solo, e di seguito. E infine, questo erano. Ecco, poi vi ho presentato questi antropologi, oggi vi parlerò di Malinowski, come primo antropologo, diciamo, primo frammento. Poi la parte monografica verterà appunto su due contesti, che è il feticismo visuale, che sarà presentato la prossima settimana, e l'Aldeia ibrida, l'Aldeia, questo villaggio brasiliano, che non è il villaggio come spesso si vede nelle trasmissioni di cui sembra che l'Aldeia, il villaggio, gli altri, l'indigene, tanti modi di chiamarli. Io vi preferisco che anche voi assimiliate questa cosa semplicissima. Invece di chiamare, di usare, prima si usava primitivi, selvaggi, adesso si usa un termine più per bene che nativi, per indicare queste popolazioni, ma insomma anche su questo è discutibile, perché anche io sono nativo di Roma, no? Per cui se io sono nativo di Roma, perché un bororo deve essere nativo del Brasile? No? Anche una persona che è nata a San Paolo è nativa di San Paolo e quindi del Brasile, per cui il termine nativo si utilizza in antropologia, ma anche nei termini del politicamente corretto, per indicare in modo implicito che una persona è un po' più nata là, un po' più nata di noi, è come se fosse un po' più naturale, ecco, di noi, che è un termine su cui riflettere, no? Perché una persona nativa deve essere più nata in un contesto rispetto a un'altra persona. Quindi è un termine che apparentemente dovrebbe essere più democratico, più politicamente corretto, ma di fatto sottintende un valore ambiguo delle popolazioni native. Allora, invece di usare tutti questi termini che si impicciano, la mia proposta veramente è di una semplicità estrema. Chiamiamoli come loro si chiamano. Si chiamano Bororo e noi li chiamiamo Bororo. Noi come ci chiamiamo? Italiano. E ci chiamiamo italiano. Non è che qualcuno dice io Massimo sono nativo di Roma. Io non lo dico. Io sono Massimo, sono nato a Roma, non sono nativo di Roma. Differenza sostanziale. Per cui il termine corretto, e vi invito a usare questa terminologia per, diciamo, entrare dentro anche un linguaggio adeguato all'antropologia e alla comunicazione, noi li chiamiamo come loro si chiamano. Si chiamano Bororo, li chiamiamo Bororo. Si sia uno sciamante e di uno sciamante. Cherokee, non è necessario usare un termine più generale. E quindi, diciamo, la terza parte del corso verterà su questo funerale Bororo, la questione del rapporto tra vita e morte, come si affronta la morte in questo contesto del Brasile, Mato Grosso, che poi vi mostrerò. Poi vedremo anche i materiali, io oggi non ho tempo, insomma qualche giorno saranno nel sito. I testi d'esame li abbiamo detti, chi ha 6 gradi, ne ha 4, ne ha 8, per esempio. Poi le immagini che introducono il fetichismo visuale, poi naturalmente affronteremo in dettaglio, quindi vi invito a osservare anche la lettura del giornale. Attualmente, come sapete benissimo, non è solamente il giornale di carta, il giornale è anche il giornale online. Il giornale online è diverso dal giornale di carta, e io credo che voi, come studenti di antropologia e comunicazione, dovreste sempre fare una osservazione etnografica del giornale online. Si scoprono sempre tantissime cose interessanti, tra l'altro molto più multimediali. Ieri sera, per esempio, c'era l'esposizione di un grande stilista che si chiama Galliano, non so se lo conosce. Insomma, conoscere alcuni stilisti per me significa come conoscere alcuni antropologi, alcuni sociologi. Quindi vanno affrontati questi stilisti o musicisti come con una grande serietà. Va conosciuta, interpretata e attraversata anche persone che con una sua loro, diciamo così, autonomia creativa producono, diciamo, moda, che non è solamente moda, la moda è parte del concetto di cultura nel senso antropologico. Dicevo, Galliano ha fatto una scarpa singolare, quindi la potete ritrovare secondo me sulla Repubblica, a livello della cultura autoriente, ha una scarpa rossa, diciamo così, più o meno classica, e ha un tacco molto lungo, molto alto, e questo tacco è una scapola africana. Allora, questo, che il fatto che uno stilista molto estremo, molto irregolare, molto di moda, diciamo così, no? Sviluppi un tipo di disegno, di design, in cui il tacco è una statua africana, classica, riconoscibilissima, una classica statua africana, le cui repliche le potete vedere benissimo a Porta Portese o a qualsiasi altro locale di questo tipo a Roma. Però che vuol dire questo? Questo è un esempio di come un giornale online possa offrire la possibilità di guardare uno stilista come Galliano che affronta il tema della moda con uno sguardo in cui c'è un'antropologia dentro. Come funziona questa antropologia? Come funziona questo rapporto tra un tacco, tra una scarpa, una parte, diciamo, si chiamava occidentale per capirci, e un tacco, diciamo, africano, tanto per capirci, cose, termini che non sono veri, perché la scarpa di Galliano non è né dell'Occidente né dell'Africa, è lui lo stilista. Ecco, che vuol dire? Qual è la relazione con il feticismo visuale, per esempio? E qual è il rapporto tra feticismo e scarpa, sicuramente la scarpa della donna? Ecco, questo io veramente adesso non entro nel merito, che è della seconda parte del corso, però nel frattempo vi invito a dare un'occhiata ai giornali online, perché nei giornali online si scoprono sempre, spesso immagini, concetti, scritture, vignette che hanno un interesse per il corso di antropologia culturale, ma penso in generale per chi studia la comunicazione, come questo occhio che è, ieri non ve l'ho commentato, ma è un occhio fiammeggiante che vi introduce al concetto di eroptica, questa ottica erotizzata che vi dovreste, ci dobbiamo allenare a sviluppare per farsi vedere, dotare il concetto di farsi vedere, farsi sguardo, farsi occhio. Ecco, questo secondo me è un'immagine del farsi occhio ed è un metodo, come dicevo, fondamentale per affrontare la comunicazione in generale e in particolare la comunicazione visuale. Immagini anticipate del fumare coloro. Questo l'abbiamo già detto. Il concetto di storia colorata, purtroppo molto breve, non alla scoperta ma alla conquista dell'America, e come questo aspetto della modernità continua nei suoi risvolti in tanti lati, molto conflittuali e molto molto negativi, nella musica, nella letteratura, nelle arti, ma anche nella politica naturalmente, no? Quindi diciamo, per citare un bellissimo libro di uno scrittore latinoamericano che si chiama Gabriano, le vene aperte dell'America Latina non sono ancora cicatrizzate. Le vene aperte dell'America Latina è il titolo di un libro molto bello e che attesta ancora che ci sono dei problemi nell'America Latina, non è che ci sono anche in Europa, in Italia, dove viaggio, noi siamo pieni di problemi, ma in America Latina ci sono alcuni problemi specifici, alcuni dei quali sono connessi con la conquista. Ricordate sempre che il più grande genocidio nella storia umana in generale è stato compiuto là, no? Sono state uccise nei modi più incredibili tutte le popolazioni, quasi tutte le popolazioni, fortuna non tutte, che vivevano là prima dell'arrivo degli europei. E su questo ci sarebbe tantissimo da dire. Mi piacerebbe introdurre maggiormente quanto è stato connesso nelle Americhe Latine, nelle Americhe in generale, nelle Americhe Latine in particolare, però magari non abbiamo tempo, vedremo un po'. Proprio questo transito dalle radici come Roots agli itinerari come Roots, che è una prospettiva che lega l'etnografia, l'identità, la soggettività e di nuovo l'antropologia. Quindi, per dare un'altra determinazione, questa sarà un'antropologia delle roots come itinerari, che non sopporta le radici, veramente non sopporta più. Poi abbiamo visto l'evoluzionismo, Tyler, Morgan e Fraser, abbiamo visto l'importanza di un autore come Fraser, Ramodoro, nato qua vicino, a Nemi, e come un testo di antropologia possa essere stato fondamentale per un film molto significativo nella storia del cinema, che è Apocalypse Now, di Coppola. Coppola, se non avesse studiato l'antropologia, probabilmente non sarebbe riuscito a dare questo senso così denso e forte e mescolato che è stato nel suo film. E quindi vi sto già dando un ulteriore concetto importante, il concetto di ibrido, di sincretismo, di mettere insieme ciò che è incongruo. Ecco, mettere insieme ciò che è incongruo è veramente un aspetto importantissimo dell'antropologia. Coppola, in questa sequenza, mette insieme ciò che è incongruo. Come si fa a mettere insieme i partner, le valchirie, le palle dell'elicottero, le mitragliatrici e l'arma? Sono cose apparentemente totalmente diverse. E allora mettere insieme ciò che è diverso, non solo che è diverso, ma che è incongruo, cioè che stride. Vi ripeto il concetto di dissonanza. La dissonanza emessa da quelle sequenze è il derivato da assemblare codici incongrui. Mi sentite? Assemblare codici incongrui. Questo assemblaggio di codici incongrui sviluppa una comunicazione visuale, sonora, del sentire, una comunicazione del sentire inedita. Una comunicazione del sentire, diciamo filmico, tanto per capirci, inedita. E questo è un aspetto di grande importanza che, se vi posso dare un consiglio, qui ognuno gioca la sua partita, come si dice, ma tenetelo presente nei vostri lavori, nelle tesi, nelle tesine, e per esempio, questa capacità, una capacità creativa di appunto mettere insieme, assemblare, rincorrere per sviluppare una sensibilità inedita, e che se seguite il ragionamento non può che basarsi sul frammento, no? Perché Coppola non è che vi fa sentire tutto che è l'anello nivelungico, che tra l'altro dovrebbe durare 6 ore, non so quanto dura, va a sentire un frammento delle valchirie, così come fa sentire un frammento delle palle di Gira, per esempio. E proprio quindi l'assemblaggio, chiamiamo ancora meglio, i frammenti tra loro incongrui che producono un testo, chiamiamolo testo, un po' di testo significativo e lento. Vi raccomando che l'antropologia da tavolino aveva come info informatori, termine importante su cui torneremo subito, informatori, i viaggiatori, i funzionari e i missionari. Certo, l'informatore vedremo subito dopo. E arriviamo a Malinowski. Allora, Malinowski, non mi ricordo né mi interessa sapere da voi, né tantomeno da me, quando è nato, la data in cui è nato. Grosso modo, insomma, nasce verso la seconda metà dell'Ottocento, è la generazione successiva a Conrad. Conrad, ve l'ho accennato ieri, Conrad è stato un grandissimo scrittore, ma prima di essere un grande scrittore è stato uno come voi dovreste essere, cioè un viaggiatore. Conrad ha viaggiato dappertutto quasi, e è riuscito poi a tradurre i suoi viaggi in dei romanzi straordinari. Il romanzo più straordinario, ovviamente sono due in genere, no? La mia ombra, che è un titolo bellissimo, e Cuore di Terra. Io sono sempre indeciso, diciamo, quale dei due titoli è più bello. Secondo me forse è La mia ombra, ma certo anche Cuore di Terra è il titolo, perché quando tu leggi questo titolo, ma che come l'altro grandissimo titolo, Il fiore del male, voi leggete il titolo semplicemente di Baudelaire, Il fiore del male, già capite che state entrando dentro qualche cosa di netto, e ancora è netto, la lettura solamente della poesia sulla distruzione di Baudelaire è una poesia, no? Che è, secondo me, Baudelaire per prima abbia capito che cosa sta accadendo in una città che sta diventando metropoli. No? E la trasforma in una poesia che è assolutamente fuori dal comune, veramente fuori dal comune all'epoca, e ancora adesso Baudelaire ha questa capacità. Che cosa al di là di Baudelaire è il titolo Il fiore del male? No, a me è Il fiore del male, è un titolo evocativo che non chiarisce nulla, perché poi la poesia non serve a chiarire, no? Serve a sentire la domanda. E così La linea d'ombra, anche Cuore di Terra, La linea d'ombra pure sono titoli evocativi. No, non è chiaro che tu, o magari qualsiasi persona, debba attraversare a un certo punto della sua vita una linea d'ombra. E questo, guardare, è veramente antropologia. No? Attraversare la linea d'ombra significa che io avevo una certa identità, parziale ma l'avevo. Poi entro in una zona che noi chiamiamo liminale, noi antropologi, liminale, è un limite. Non è più la zona precedente e non ancora quell'altra, quindi non si sa dove si sta esattamente, è una linea d'ombra, no? È un'ombra che fa una linea e noi viviamo un momento di transizione in cui tutta la nostra vita passata, gli amori, le letture, gli spazi, i territori in qualche modo diventano obsoleti, no? Diventano un po' vecchi, come posso dire. E però non c'è ancora l'altro, non c'è ancora il nuovo. Ecco, questo transito della linea d'ombra, questo stare tra, di nuovo, stare tra la linea d'ombra, è un momento fondamentale dell'antropologia, è una zona liminare. È il passato è passato, il futuro ancora non c'è. Sono un presente in cui il passato è insoddisfacente e il futuro è inimmaginabile. E che faccio? Che fa una persona quando sta nella linea d'ombra? Questa è la domanda fondamentale di Conrad, che io spero sia anche una domanda, non so se fondamentale, una domanda che anche voi dovrete porre e dovete in qualche modo attraversare, che non si può rimanere a lungo nella linea d'ombra, se no si diventa ombra. E vi dicevo, Conrad viaggiava, Malinowski era dal punto di vista della nazione era polacco, dal punto di vista dello Stato era tedesco, perché qualcuno spero ricorderà all'epoca quella che noi adesso definiamo Polonia come Stato-Nazione, all'epoca non c'era, no? All'epoca come Stato era Germania, era Prussia, no? Come nazione invece era Polonia, no? Come fatta accadere anche da un'Italia, no? Quando non c'era ancora lo Stato italiano, molti erano italiani, ma lo stato di appartenenza era ovviamente montese, era austriaco e via dicendo. Quindi lui nasce con questa ambiguità, già con questa identità precaria, diciamo così, no? Che avrà un significativo momento, e decide, per un'occasione che si presenta, di iniziare a fare una ricerca, di andare in Australia e dall'Australia andare nelle isole Troie, perché adesso vi mostro. Ecco, vedete? Le Troie stanno, lì c'è la Nuova Guinea e qui in basso c'è l'Australia, in Australia, arriva in Australia e scoppia la prima guerra mondiale. Lui è tedesco, ha passaporto tedesco, quindi viene immediatamente arrestato, perché l'Australia all'epoca era ancora colonia britannica. Quindi viene arrestato e viene liberato, fortunatamente, dall'antropologo che l'aveva invitato, perché testimonia al governo di Sua Maestà che Malinowski era di nazione polacca e poi era stato invitato per fare una ricerca antropologica. Questa ricerca antropologica Malinowski la volle fare, vi ho lanciato ieri, perché era insoddisfatto. Lui aveva cominciato a studiare l'antropologia, a studiare i classici, vi ho mostrato ieri, il libro di Taylor, Fraser è stato un po' il suo maestro. Solo lui era insoddisfatto, cioè leggere i testi della mitologia comparata, come ha fatto Fraser, era insufficiente. O fare un testo di antropologia, come ha fatto Taylor, attraverso i missionari, i viaggiatori e i funzionari coloniali, per cui non funzionava, non era scientifico. Quindi Malinowski aveva come istanza fondare scientificamente l'antropologia. E come si fonda scientificamente questa disciplina? La sua risposta è chiarissima, e lo sarà anche per voi, con l'etnografia. Qui è messo al secondo posto. Etnografia. Allora, l'etnografia è un concetto importantissimo, perché un po' vi ho introdotto l'antropologia culturale come disciplina. L'antropologia come disciplina ha un metodo nella sua tradizione. E come si chiama questo metodo? Etnografia. L'etnografia è il metodo dell'antropologia. In che senso? L'etnografia è una descrizione, grafia, di una cultura, traduciamo così, etno, stando sul campo di una singola cultura. L'etnografia è il momento più bello, appassionante, difficile e complicato dell'antropologo, cioè fare ricerca sul campo. Fare ricerca sul campo. Il campo è il contesto dell'etnografia. Capite? L'antropologo naturalmente studia all'università, alla biblioteca, si vede i film, sente la musica, ma quando fa ricerca sul campo, lì diventa etnografo. E l'etnografia è minuziosa e, ancora una volta, focalizzata. Si focalizza un aspetto della cultura. Si focalizza o una cultura, poi lo vedremo, questo è un po' complicato, un aspetto della cultura. Questo metodo, etnografia, che appartiene alla storia dell'antropologia, attualmente si è in qualche modo autonomizzato. Per cui fare ricerca sul campo appartiene all'esperienza di tutte le discipline. Quindi l'etnografia attualmente non è più di pertinenza dell'antropologia, nasce con l'antropologia, ma l'etnografia come metodo di ricerca sul campo appartiene a chiunque voglia fare ricerca. Sociologo, politologo, psicologo, psichiatra, scienziato della comunicazione, medico, no? Emergency non può essere emergency senza etnografia. I medici senza frontiere non possono essere danni senza etnografia, capite? Anche l'ingegnere più il tecnico non può fare la diga in un qualsiasi contesto senza una forma etnografica. Greenpeace. Quindi l'etnografia attualmente io spero che voi, che diventi anche il vostro metodo, perché vi assicuro non c'è cosa, no, non c'è, adesso sto esagerando, cioè, e tra le cose più belle che possiate vivere nella vostra esperienza è stare sul campo, fare la ricerca sul campo con le difficoltà, le bellezze, le improvvisazioni, le grandi improvvisazioni che stando sul campo dovete affrontare e risolvere, dove nessuno vi potrà dire esattamente quello che dovete fare, lo dovete fare. No, l'improvvisazione in campo musicale, per riprendere il tema di ieri, è anche fondamentale nell'etnografia. Capite? Non c'è il metodo per cui io faccio quella domanda, dove c'è una risposta, o sento lì, guardo là. Insomma, tutte queste cose sì, sono anche importanti. Ma l'importanza che vi dovete veramente sciogliere, che ci dobbiamo sciogliere, è quella proprio di saper capire in quel momento cosa fare. Diciamo proprio l'improvvisazione, che non è basata sull'assenza di regole, attenzione, l'improvvisazione non è regolata, non è sì, vado là. L'improvvisazione è basata su una profonda conoscenza di se stessi e del contesto. Così io posso improvvisare. Coltrane improvvisa perché sa usare tutti gli strumenti del sassofono. Non potrebbe improvvisare senza una conoscenza profonda del suo strumento e delle tecniche e delle sue visioni. Quindi, ripeto, l'improvvisazione non è quando mai c'è trovo. L'improvvisazione è veramente una profonda sensibilità che sa cogliere un momento in cui scegliere di fare una cosa anziché l'altra. Bene, questa è l'etnografia, no? Questo è quello che Magnoschi ha voluto fare. E lui è il fondatore dell'etnografia, questo è importante. Magnoschi ha fondato l'etnografia. L'ha fondata perché l'ha voluta, l'ha pensata e ci è andato. È andato a Reisele Program per fare etnografia. Come? Allora, il primo termine che ho messo è il termine. È l'altro metodo, diciamo, è il metodo del metodo, è il funzionalismo. Quindi Malinowski vuole sapere che lui ha inventato, oltre all'etnografia, il metodo funzionalista, che è una cosa molto semplice, poi ve lo spiegherò anche un po' meglio. Il metodo funzionalista per Malinowski significa che se io cerco di capire il rapporto di parentela tra loro due, per esempio, o un mito, o un rituale, questo rapporto di parentela, questo mito e questo rituale non si capiscono isolatamente, si capiscono, si interpretano, perché sono in funzione di una più vasta condizione in quella cultura, che è la cultura. Per cui Malinowski vedeva delle relazioni funzionali tra le tante parti che costituiscono la cultura. Relazioni funzionali. E queste relazioni funzionali producono un tutto. Capite? Un tutto. Allora il funzionalismo è stabilire relazioni funzionali tra le parti per individuare il tutto. Relazioni funzionali tra le parti per individuare il tutto. Vi è chiaro? Ci siete? Restiamo tutti a il terzo concetto importantissimo, anche questo, forse è una delle cose più geniali di Malinowski, lui inventò questo altro aspetto dell'etnografia fondamentale, cioè l'osservazione partecipante. Termine fondamentale, lo dovete conoscere benissimo. L'osservazione partecipante per Malinowski vuol dire questo. Io antropologo o io comunicatore, io sociologo, vado sul campo. Quando vado sul campo, normalmente sviluppo osservazione, osservo ogni minimo dettaglio di quella cultura. Ma nello stesso tempo devo partecipare. Non è un'osservazione distaccata, non è un'osservazione naturalista. Intendete naturalista? Nel senso con delle scienze naturali, non è come il botanico, l'ecologo, o che altro che discende di questo tipo, è partecipante. Cioè, se Malinowski deve interpretare un rituale dove è prevista per esempio la danza, Malinowski che fa? Osserva e danza. Capite? Osserva e danza. Fa le due cose più o meno contemporaneamente. Se vuole capire come funziona l'agricoltura, lavora sul campo. Sul campo, nel senso del campo dell'agricoltura. Questa è l'osservazione partecipante, cioè l'antropologo non se ne sta tranquillo, si sporca le mani entrando dentro la cultura locale. Rimane antropologo, non si trasforma in torbiardese, non fa teatro, rimane antropologo, rimane altro, ma un altro che accetta di vivere come vivono loro, questi altri, capite? Questa è l'osservazione partecipante, che è ancora il metodo dell'etnografia. Quando voi, spero, farete una ricerca sul campo, farete osservazione partecipante. Non c'è via. Già ieri ho tradotto il relativismo culturale, quindi adesso vi posso dire solamente poco, ma diciamo una cosa che voglio dire fondamentale. Ve l'ho accennata ieri, ve la dico con forza. Il relativismo, l'ho detto, per Malinowski, per capire l'isola propria, bisognava cogliere, vedere, capire come loro si interpretano, quelli che sono i loro punti di vista, non proiettare quelli suoi, quelli australiani, non che ne so. Quindi il relativismo colloca i valori di una cultura all'interno di quella cultura. È semplicissimo. Si collocano i valori, le visioni del mondo, i comportamenti, la sessualità, il lavoro, eccetera, dentro quella cultura. Quindi, già ieri vi ho sottolineato, spero con forza e passione, che questo relativismo, specialmente all'epoca, ma in parte modificato anche oggi, contro gli universalismi, contro i razzismi, i pregiudizi, gli eurocentrismi, gli orientalismi, capito? Tutte forme che stigmatizzano l'altro perché non è uguale a noi. E Malinowski non sopportava giustamente che l'altro fosse uguale a noi, capite? Questo è il relativismo. E poi Malinowski sviluppa un concetto che è ancora un concetto bello e significativo, e dice così: bisogna cogliere il punto di vista nativo. Dice nativo, però abbiamo capito adesso che cosa vuol dire. Cogliere il punto di vista nativo. Come si fa a cogliere il punto di vista nativo è una cosa complicatissima veramente, ma è questa la visione del mondo di un antropologo come Malinowski, che è importantissima. Quindi cogliere il loro punto di vista, non il mio o di un altro, cogliere il punto di vista nativo è una geniale impostazione. E infine le sue troppe ve l'ho dette, e poi fa un'analisi. Il libro si chiama Gli Argonauti del Pacifico Occidentale, che è un titolo, un libro famosissimo, perché è il primo libro, diciamo, antropologico nel senso stretto. Gli argonauti sono i troglandesi, perché i troglandesi costruivano delle barche che avevano molto lunghe, che si chiamano, che noi chiamiamo catamarano, presente catamarano. Catamarano è quella barca che ha una base laterale, una specie di striscia di legno che si bilancia per bilanciarsi. Avete presente catamarano? Ecco, col catamarano questi troglandesi navigavano tantissimo, erano dei grandi navigatori. Dicevo, il titolo Gli Argonauti del Pacifico Centrale. Il termine argonauti, capite perché? Perché gli argonauti sono stati nel mito nostro europeo, sono stati stati i grandi navigatori, no? Ora il titolo, secondo me, adesso possiamo dire non funziona tanto, perché avere come metafora i protagonisti arruolati, tra l'altro erano, andavano nella colline non per fare una passeggiata, erano lì per prendere il giorno dopo, lì si ricorda la storia di Tito, cioè erano lì per conquistare l'Asia. Quindi gli arruolati non erano degli innocenti, erano i greci che andavano lì per conquistare, erano conquistatori, dei corsari all'epoca. Quindi mettere questo termine di referenza ai profeti, adesso lo possiamo dire con tanto amore, ma in nostra transizione. Comunque erano marinai e il rituale che lui ha studiato sugli argonauti è il kula, che è scritto là. È un rituale molto complicato, complicatissimo. È un rituale in cui le navi girano in senso, diciamo due gruppi di navi, una in senso orario e una in senso antiorario. Quando si incontrano, uno chi appartiene a una nave dà all'altro delle conchiglie e l'altro dà al primo delle collane. No. Allora, perché avviene questo? Qual è il senso di questo rituale, questo kula, che organizza per Malinowski l'intera vita simbolica, produttiva, economica, rituale, dei torbrandesi? Perché è così importante? E qui iniziamo a degli aspetti di grande interesse, vedete, l'ultimo punto. Malinowski critica due persone che sono abbastanza importanti, Marx e Freud. Quindi avremo adesso, presenteremo due critiche, le due critiche, una a Marx e una a Freud. Intanto vedete questa immagine però ve la commenterò dopo. Adesso osservatela con attenzione. Guardate con i nostri, è il problema. Allora, Malinowski critica Freud. Su che cosa? Freud, sapete, già è contemporaneo di Malinowski e Freud diventa molto celebre, tutti discutono le teorie di Freud sulla psicoanalisi e in particolare Malinowski si appassiona al mito, al complesso di Edipo, al complesso di Edipo. E anche questo è significativo, vuole verificare sul campo l'ipotesi freudiana, perché Freud elabora questa teoria, il complesso Edipo è universale. Ci risiamo, no? L'Occidente è così, il complesso Edipo è universale, appartiene all'umanità in quanto Homo sapiens sapiens. Ed è basata questa teoria sulla pratica della psicoanalisi che Freud ha fatta a Vienna, non l'ha fatta nelle lezioni della Vienna, capite? L'ha fatta a Vienna. Allora Malinowski dice, ma andiamo a vedere se nell'eziotropia il meccanismo psicoanalitico del complesso egittico è uguale a Vienna, all'Europa. E lui scopre alcune cose sono di enorme interesse. Cerco di riassumermele perché sono importanti nel modo più semplice possibile. Allora, la prima cosa, già all'epoca si diffonde una grande discussione sul tabù dell'incesto. Che è il tabù dell'incesto? Che tipo di proibizione coinvolge il tabù dell'incesto? Chi è parte di questo tabù? Padre, madre, figli, le sorelle, lo zio, fino a quando la zia, fino a che grado? Insomma, si discute moltissimo su questo. E si discuteva se il tabù dell'incesto fosse un fatto appunto universale, se fosse determinato dalla morale, dalla religione, oppure da qualcosa di altro, che insomma è uno dei grandi problemi dell'antropologia. Qual è il significato profondo del tabù dell'incesto? Perché c'è il tabù dell'incesto? per cercare di affrontare questo problema, che non era mai stato affrontato sul campo, dicevo, Malinowski primo scopre una cosa. I trogardesi hanno un sistema di discendenza che è matrilineare, non è patrilineare. Che vuol dire? Vuol dire che quando è matrilineare, la discendenza è data appunto dalla mamma, dalla madre. Quindi il figlio nasce dove è quella parte del villaggio dove c'è la madre e non dove c'è il padre. La discendenza matrilineare non significa che la donna ha un potere, come all'epoca era pensato, il concetto di matriarcato, che è una grande favola dell'Occidente. Non so se sapete come nasce questa teoria del matriarcato. La teoria del matriarcato nasce da uno svizzero che si chiama Bachofen, che scrive un libro famosissimo che si chiama Il matriarcato, il diritto materno, matriarcato. E si fonda niente meno che sulle tragedie greche, sull'Orestiade. È più importante uccidere la madre o uccidere il padre? Questo era il problema dei greci. Non so se lo ricordate. Lo ricordate che è più importante uccidere il padre o la madre? Il parricidio o il matricidio? La scelta finale, molto discussa, nella tragedia della Grecia è il padre. Molto più grave uccidere il padre, cioè la madre, e questo crea non solamente la discendenza patrilineare, naturalmente in Grecia era così, ma anche il patriarcato, perché in Occidente c'è il patriarcato, e come? In parte un po' meno, diciamo, non so. Il patriarcato, diceva Bachofen, era precedente, cioè prima del patriarcato c'era il patriarcato, che è una fantasia, no? Che ancora continua, infatti. Continua a dirsi il matriarcato, cioè o si usa qualche metafora, ma immaginare una cultura in cui il potere delle donne è mito. Non c'è stata una cultura col potere delle donne. E questo è importante per mettere in discussione questo potere, capite? Potere maschile. Allora lì dice, attenzione, c'è una discendenza matrilineare, che purtuttavia nel matrilineare la condizione della donna in genere è leggermente migliore delle culture patrilineari. È leggermente migliore. Bene, questa è una prima scoperta. Ricordate, già ieri vi dicevo che all'epoca si pensava che i selvaggi non avessero tabù sessuale, l'amore che era fatto da tutti, no? Tutte queste balle qua, no? L'amore naturale, queste cose. Ma diciamo, i rapporti di parentela erano organizzati in modo molto molto stretto, tramandati oralmente, in un modo che adesso vi riassumo molto semplicemente. Allora immaginate un villaggio trogardese diviso in due clan, qui c'è un clan e qui c'è un altro clan. Tra i due clan vi è un tabù rigorosissimo, nessuno si può, dentro lo stesso clan c'è un tabù rigorosissimo, nessuno di voi può sposarsi al vostro interno. Che cosa scopre già stato su Malinowski? Che tu per esempio, mettiamo che tu ti debba sposare, ti dovrai sposare necessariamente con una persona che è abbastanza determinata e che si chiama cugino incrociato. Il cugino incrociato è un po' complicato, insomma. Il cugino incrociato è il figlio del fratello della madre o il figlio della sorella del padre. Ce l'avete chiaro? Il figlio del fratello della madre è incrociato. Il figlio del fratello del padre è parallelo. Fratello del padre, maschio maschio, fratello della madre, incrociato. Ci siete? Allora lei si potrà sposare solamente con un cugino incrociato, cioè solamente tra uno dei figli del fratello della madre o della sorella del padre. Questi sono i tuoi futuri sposi. E viceversa, voi potete sposare solamente con questo cugino incrociato, non con quello parallelo. Perché? Da un punto di vista biologico, sono cugini, non è che c'è una differenza sostanziale, a volte si parla di tabù del sangue, queste cose. Non è che c'è una cosa, una differenza sostanziale tra cugini paralleli e cugini incrociati. Eppure, non solamente per troppi attesi, ma in tantissime culture, ci si sposa solo tra cugini incrociati. Qui c'è il nodo del tabù del gesto, di cui adesso non entro in tutti i dettagli più complessi, o se volete fare domande, o volete fare. Però diciamo, la risposta che dà l'antropologia a questa scelta, che è una scelta implicita, è basata su una tradizione implicita, deriva dal fatto che sposando cugini crociati il rapporto tra donne e uomini rimane costante nei due clan. Se ci si sposa per cugini paralleli, un clan avrà più donne dell'altro, e se un clan avrà più donne dell'altro è un casino, c'è la guerra, c'è il conflitto, c'è uno sbilanciamento di poteri. Allora, qual è la soluzione del tabù del cesso? Il tabù del cesso è un tabù culturale, come si dice. È un tabù che ha favorito lo sviluppo della cultura. E a livello, qui non c'è dubbio, homo sapiens sapiens. Quindi ogni cultura, ogni dopo sapiens sapiens nel suo complesso generale, ha dovuto attraversare il tabù dell'incesto, risolvere il tabù dell'incesto, perché questo tabù sviluppa un tipo di relazioni tra i clan e via di seguito che sono sostenibili, diciamo, secondo il termine nostro. Questa è l'ipotesi, diciamo così, di fondo. E per un verso, per l'altro verso, per tornare al complesso etico, la sorella, essendo matrilineare, tra fratelli c'è un tabù rigorosissimo, tra le maschi e femmine c'è un tabù rigorosissimo, e lo potete capire perché la sorella sposando un uomo dell'altro clan, questo rapporto, quando fanno un figlio, sto parlando dell'epoca dei nostri, quindi 1910-20, i trovandesi non conoscevano un rapporto tra sessualità e riproduzione. Quindi il padre biologico si sapeva, il padre nel senso che diciamo biologico, il padre, ma di fatto la funzione del padre non era la funzione simbolica del padre, non era esercita dal padre in utero biologico, ma dal fratello della madre, dallo zio materno. Lo zio materno svolgeva tutte quelle funzioni, Malinowski, che normalmente svolge il padre, come noi intendiamo. Quindi è un'autorità che dà gli ordini, che dà questo, ti indica cosa fare e cosa non fare. Quindi l'autorità nella famiglia è lo zio materno. Il padre biologico invece è compagno di giochi. È una persona tranquilla, stanno in gioco, tranquillo, hanno un tipo di rapporto, padre e figlio, nel nostro senso, diciamo anche nel senso europeo, che non è basato su un concetto di autorità. L'autorità è lo zio. E allora, qui veniamo al noccio della critica di Malinowski. Il complesso edipico nelle isole proprandesi, non essendo più universale, non è rivolto verso il padre, ma verso lo zio. E in questo senso, vedete, il concetto di relativismo culturale diventa straordinario. Si capisce, secondo me, immediatamente come il relativismo non sta dicendo sì, tutti magari proprio, cioè giudizi, assenza di giudizi di valore. Il relativismo significa che per capire il tabù dell'incesto io non posso stare seduto sulla mente a piena. Capite? Per capire il tabù dell'incesto io devo stare a Vienna e devo andare almeno alle isole Trope. Questa è l'importanza del relativismo. Questo significa collocare il tabù dell'incesto nel contesto locale e non nella mente di Freud, che è straordinario naturalmente, però con un limite, che è un limite dei suoi tempi, ma è un limite. Però attenzione, Freud ha un limite, come tutti naturalmente, anche Malinowski. Malinowski su questo terreno riesce a dare una visione molto più articolata, molto articolata, grazie appunto a questa attenzione alla ricerca sul campo. Grazie all'attenzione alla ricerca sul campo. E questo è per quello che riguarda la sessualità. Malinowski studia molto la sessualità progredese. E poi sulla produzione, la critica a Marx. Quindi le cose sono leggermente un po' più complesse, ma normalmente all'epoca il marxismo si basava sulla centralità della struttura economica, la centralità della struttura economica, il capitalismo, e sulla secondarietà della sovrastruttura. Ricordate la distinzione struttura e sovrastruttura? La struttura è il modo di produzione, la sovrastruttura è quell'insieme che è vicino alla cultura, che riguarda il diritto, la politica, la religione, le visioni del mondo, le arti, e la sovrastruttura è determinata in una celebre fase di Marx, in ultima istanza, dalla struttura. Quindi è il modello economico che favorisce lo sviluppo culturale in un senso o in un altro. Questa è la lettura del marxismo. Vi dico la verità che Marx non ha mai detto esattamente questo, ma tutti i marxisti l'hanno detto, tutti i marxisti hanno affermato, specialmente all'epoca, questo dualismo struttura sopra struttura, centro della struttura, dell'economia, no, per cui si dice ancora adesso che il marxismo è l'homo economicus, cosa che Marx non ha mai detto veramente, ma tutti i marxisti l'hanno detto. Solo uno veramente è uscito fuori da questo cuore, forse perché stava in prigione, ma è Gramsci l'unico che, stando in prigione, stando sepolto vicino a casa mia, al cimitero cosiddetto degli inglesi, alla piramide, Gramsci elabora, stando in prigione, appunto un concetto di cultura autonomo, leggermente autonomo, concetto di egemonia, che è un concetto importante, di cui adesso però siamo in una variazione, però tenete presente, ecco, che il marxismo ufficiale è la struttura sulla struttura, l'economia è il centro della struttura dell'economia. Per Malinowski, studiando questo pula, questo rituale, dice, Marx ha torto. Forse potrebbe funzionare questo meccanismo in Europa, nell'era industriale, ma non funziona nelle sue droghe. Cioè fa la stessa critica in parte che è fatta a Freud, capite? E entrambi hanno, sia Marx che Freud, avevano delle visioni, per ragazzi tutto il mondo liberi, visioni universaliste. Comunismo o era universale o non era nella visione di Marx. Allora, il Kula, dice Malinowski, è una transazione, che è scritto transizione, scusate, una transazione economica, ma è anche un rituale, è anche, si stabilisce il rapporto di parentela, si connette con la sessualità e alla religione. Quindi dire che c'è un centro che centralizza e le periferie che sono quelle culturali, nelle visioni proprie non funziona. E non funzionerà nell'antologia di tutte queste culture. E allora vedete, anche qui Malinowski individua con il suo relativismo un nodo centrale che è ancora in parte non risolto, secondo me, da tante teorie, sul rapporto cioè tra strutture e sovrastrutture, che sono termini, non so se nelle vostre esperienze, che avevano un'importanza fondamentale, attualmente un po' meno, secondo me, non so, ecco nella vostra esperienza, cioè, diciamo, negli anni 60-70 erano il centro della riflessione, attualmente molto meno, speriamo, perché struttura sulla struttura, se avete seguito il ragionamento, riproducono il dualismo, dualismi, e credo che uno dei dualismi veramente più datati è quello di struttura e sovrastruttura. Bene, queste sono le due critiche facciamo il metodo, facciamo la critica a mani nostri, va bene? Altri aspetti del metodo, facciamo altri 10 minuti e poi facciamo il metodo, va bene? Sono cose molto semplici. Abbiamo visto che il metodo etnografico è l'osservazione partecipante. Come si organizza? E Malinowski, nella celebre introduzione metodologica al libro, dà queste indicazioni che vi riassumo molto brevemente, ma sono importanti. Una, la prima l'ho già detta, no, cogliere il punto di vista nativo. La seconda è molto bella, è la tenda. Dice Malinowski, dove si mette la tenda l'antropologo? La mette nel villaggio. Perché prima di Malinowski, missionari, funzionari, eccetera, eccetera, andavano nei villaggi, andavano a dormire nel loro villaggio, insomma, il villaggio della colonia. Allora, Malinowski rompe questa concezione. La tenda, l'antropologo, la mette dentro il villaggio. E questa è una grande rivoluzione, perché si vive nel villaggio 24 ore al giorno, non 2 ore. Poi, la lingua. Bisogna conoscere la lingua locale. Questo per Malinowski e ancora per tutti è importantissimo, perché la lingua, quando si traduce, si tradisce. Tutti lo sanno, no? Traduzione, tradimento. Traduzione, traduttore, traditore. Quando io traduco una visione del mondo irlandese, la tradisco costantemente. Pensate ai termini più importanti. Pensate al termine di anima, di Dio, di peccato, di morale. Sono termini che molto frequentemente traducono nel nostro linguaggio occidentale dei concetti che nelle isole tropiche o tra i coloro hanno un significato profondamente diverso. Il diavolo. Non vi dico le volte che il diavolo è stato tradotto in italiano, in inglese, nelle lingue italiane occidentali, tentando di dare il senso a un'entità che non è il diavolo, ma la traduzione è il diavolo. Allora noi ci troviamo di fronte a una quantità enorme di tradimenti in cui gli altri sono stati fraintesi e continuano a essere fraintesi, perché noi usiamo il nostro linguaggio per capire un altro linguaggio. E il linguaggio, sapete benissimo, è legato a una logica, a un modo di vedere il mondo. Il linguaggio non è solamente una tecnica. In questo modo la tradizione ha tradito, in termini razzisti, dominanti, eurocentrici, gli altri. La tradizione è stata e continua a essere uno dei grandi, stavo per dire primi, adesso non so se il termine è forte, ma certo uno dei grandi elementi di controllo e di dominio dell'altro. Perché la traduzione tradisce, non si può tradurre un concetto in un'altra lingua. Cura non si può tradurre. Capite? Kalinowski non è che traduce cura. Cura è un rituale, insomma, lui parla per un libro intero per dire che è cura. E allora, per capire una popolazione va conosciuta la lingua. Allora, la prima cosa che ha fatto Malinowski, la seconda, la prima la tenda, la seconda ha iniziato a studiare il proprio inglese. Mentre prima c'era una figura che vi ho detto importante, che è l'informatore. L'antropologo, Malinowski per primo, dice dovete capire chi è l'informatore. L'informatore è una persona, propriamente in questo caso, che più degli altri gli piace chiacchierare con lo straniero. Di un altro sta vicino a un altro popolo. Perché? Non si sa. Non c'è una regola. Andare in un contesto etnografico, insomma, dopo qualche giorno l'informatore sarà, come dire, individuato per motivi di prestigio, per motivi perché gli piace, pensa di avere dei benefici, in questo caso il tabacco per esempio, ma i nostri lavori di tabacco molti informatori. Non è molto, non sarà mai molto chiaro, ma è certo che c'è in genere sempre una o due persone che sono più interessate degli altri a parlare con uno straniero. Questo è l'informatore. L'informatore ha un ruolo importantissimo perché ti introduce dentro. Capito? Una volta che c'è l'informatore è più facile entrare in tutti gli spazi di un villaggio. Da soli è difficile. Con l'informatore avete una password. Vi introduce, vi legittima. Per cui c'è questa reciprocità tra antropologo, etnografo e informatore. E poi l'informatore non solo vi darà tante informazioni le sue, sul mito, sulla parentela, su come si cucina, per esempio, ma l'informatore, c'è un ragionamento che mi è saltato. Ma al di là di questo, vi dico quello, l'informatore rimarrà anonimo nella storia dell'antropologia. Questo già entriamo dentro dei crimini che si possono fare. Cioè, mentre lo sappiamo di Malinowski, o sappiamo di Lestrosi, sappiamo tutti gli antropologi, non conosciamo i nomi degli informatori. Cioè, è come se gli informatori fossero troppo grandesi. Ma gli informatori sono troppo grandesi, certamente, ma neanche un nome e cognome. E perché manca il nome e cognome? Questo è un problema. È come se la soggettività piena appartenesse solamente a Bronislaw Malinowski. Capite? C'è un problema nell'antropologia, nell'inizio, ma non solo nell'inizio. Uno di questi problemi è la soggettività. Io sono soggetto, io sono antropologo. E lui è un coloro. Sì, ma lui non è solo un coloro, si chiama nome e cognome. Capito? I musei di antropologia non avevano i nomi e cognomi. I musei di antropologia in tutto il mondo avevano la fotografia di un tizio, poi magari un oggetto, e poi c'era scritto Trobriandese, Trobria, 1900, punto. Sapete quando sono stati iniziati a mettere i nomi e i cognomi, e anche le date di nascita e di morte? Negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni l'antropologia ha iniziato a dare nome e cognome agli altri. Prima il nome era, io uso il termine apposta, l'etnia. Prima era l'etnia il nome. Era una cosa gravissima questa. Beh, questo è l'informatore di cui è importantissimo, perché poi la cosa che ho dimenticato, l'informatore ti introduce nella lingua pure, no? Quindi il primo, diciamo così, maestro della lingua trobriandese sarà l'informatore. E lui è il tuo maestro. Lui che ti spiega la lingua. Quindi, anche questa è un'altra cosa importantissima. Poi, che deve avere il taccuino. Cioè, vai sul campo, deve avere il taccuino. Il taccuino è uno strumento fondamentale. Nel taccuino si scrive tutto. Tutte le tue impressioni, la tua osservazione partecipante va trascritta sul taccuino. Quindi grande strumento metodologico il taccuino. Certo. Questa osservazione partecipante, anche il fatto di mettere la tenda all'interno del villaggio e prendere contatto con l'informatore. Osservazione partecipante, mettere la tenda nel villaggio? E prendere contatto con l'informatore. Non c'è una sorta di come posso dire, modifica un po' gli atteggiamenti. Modifica gli atteggiamenti? Delle persone osservate. Ah, certo, questo è il sistema. L'antropologo sul campo, questo lo vedremo un po' dopo, però è fatto benissimo anticiparlo. Modifica la sola presenza dell'antropologo, modifica il contesto. Ma se ci ragioni bene, questa è la cosa più bella che ci sia. è anche la cosa più, se vuoi, normale che ci sia. Questo anche in campo delle scienze fisiche, uguale. No, fare un esperimento a livello della fisica, anche più nucleare, quella che è stata fatta adesso, c'è il contesto dell'esperimento della fisica, modifica l'esperimento. Quindi questo vale sia per le leggi, diciamo, sia della fisica più minuziosa, e ancora di più nei contesti antropologici. Ma questa è, diciamo, la bellezza. A lungo alcuni hanno pensato che queste popolazioni andassero studiate come si studiano le scimmie, in termini etologici, no? A parte che anche il comportamento animale è modificato dalla presenza dell'uomo, sempre, anche se sto molto discreto. Ma la cosa fondamentale è che la cultura, che è la risposta, secondo me, finale alla tua domanda, la cultura di una popolazione sta dentro un processo, l'ho detto anche ieri, di mutamento culturale. Il mutamento culturale di una cultura molto normalmente è dato dall'incontro con l'altro, e quindi non esiste una cultura che sia totalmente separata dagli altri. Quindi il mutamento culturale è parte del processo. Quindi la presenza dell'antropologo muta la cultura? Sì, certo. Sarebbe assurdo se rimanesse identica. In parte alcune cose mutano, in parte no, ma certamente già è iniziato un processo che noi definiamo mutamento culturale. È così. E naturalmente bisogna essere consapevoli di questo, perché altrimenti si possono fare le cose molto gravi. Indirizzare il mutamento culturale, rimanere neutrali, oppure dare consigli, che deve fare l'antropologo? Il taccuino è poi il diario. Bisogna avere un diario. Quindi la differenza tra taccuino e diario credo che sia abbastanza grande. Nel taccuino si scrive l'osservazione partecipante, nel diario c'è la soggettività. Il diario sarà il problema di Malinowski e di tutta l'antropologia. Il diario sarà il problema, che lo vedremo subito dopo. L'ultimo elemento è la macchina fotografica. Malinowski, già all'epoca, l'avete già visto, usava la macchina fotografica, perché i primi e a lungo gli unici studiosi sociali che hanno utilizzato la macchina fotografica, la cinepresa e il video sono stati antropologici. I sociologi non li usavano, i psicologi non li usavano. Dopo, perché nel 50 c'era. Gli antropologi, a partire dall'inizio, usano le tecnologie della comunicazione. E già ieri l'ho detto su Benson, no? In relazione al rapporto con le tecniche, le tecnologie, anche le più avanzate, è parte costitutiva dell'antropologia. Anche se all'epoca era difficile fare le fotografie, ma Malinowski sceglie di farle. E come vedete, sono un materiale straordinario di riflessione. Il 31, facciamo il break adesso? Facciamo il momento dopo? Vi devo chiedere una cortesia, per un motivo personale, nel senso che devo andare dal medico, dovrò chiudere la lezione un quanto ora prima, un po' come ieri, diciamo così. Quindi finiremo 16 minuti prima delle 5, va bene? Mi dispiace, ma è così. Il diario è rimasto inedito per moltissimo tempo. Majnowski scrive nel suo testamento, muore nel 42, scrive nel suo testamento che il diario dovrà rimanere appunto sempre, scusi, inedito, non dovrà mai essere pubblicato. Che succede? La seconda moglie nel 1967 lo fa pubblicare. Lo fa pubblicare. Nel 1967 esce questo libro che si chiama The Diary in the Strict Sense of the Term, il diario in senso stretto del termine. In senso stretto del termine, vedete? Cioè è proprio un diario intimo. Allora, questo diario è stato tradotto anche in italiano, purtroppo il titolo della traduzione è veramente un tradimento veramente ignobile, perché è Il giornale di un antropologo, che proprio non c'entra assolutamente niente, Il giornale di un antropologo. Però è stato tradotto e già sia la traduzione inglese, quindi anche quella italiana, è parziale. Ci sono delle zone che è stato deciso di non pubblicare. Quindi non è tutta la verità, diciamo così. Allora, dicevo, questo quando è stato pubblicato, nel 67, quindi un periodo di grandi fermenti nelle università, nella ricerca, nell'antropologia, quando fu pubblicato, una parte, devo dire la verità, piccola, molto minoritaria, degli antropologi, è quella di crisi. Nasce una crisi profonda nella disciplina dell'antropologia. Perché? Allora, io vi ho presentato il metodo di Majnowski, l'analisi culturale, coglie il punto del disperativo, osservazione partecipante, la tecnica, scusate, del taccuino, di macchina fotografica, e leggendo il diario è come se un altro universo entrasse in scena. Qual è la verità? Noi abbiamo due libri, quindi di Majnowski, non uno. Abbiamo Gli Argonauti del fascismo occidentale, che è un libro, è il libro dell'etnografia, e poi abbiamo The Diary in the Strict Sense of the Term. Il diario in senso stretto del termine. Allora, gli antropologi, ci sono alcuni, dicevo, molto minoritari, si sono posti la domanda: ma dov'è la verità? Dov'è la verità dell'antropologo? Degli Argonauti o nel diario? Perché alcune cose sono contrastanti. Sono drammaticamente contrastanti. Le cose che dice negli Argonauti, nel diario diventano altro. Allora, qual è il rapporto tra l'antropologo ricercatore, l'antropologo etnografo e l'antropologo essere umano? Tra il metodo funzionalista e il suo sentire, come ho detto, il suo aspetto intimo, privato, anche sessuale, amoroso. E qual è il limite dell'antropologia? Ha un limite l'antropologia? Quando tu stai sul campo, i tuoi aspetti privati stanno fuori dalla ricerca? La ricerca è solo quella, diciamo così, classica, sull'altro? E te, antropologo, la tua soggettività? Insomma, qual è il rapporto tra soggettività dell'antropologo e il funzionalismo della ricerca? Questo è il problema. È un problema drammatico, non si risolve. Non si risolve. Nel diario ci sono tutta una serie di annotazioni che sono esplicitamente in contrasto con il metodo antropologico. Vi faccio alcuni esempi, anche le immagini. Un esempio è sugli informatori. Gli informatori propriandesi prendevano appuntamento con Majnowski, dovevano andare da lui, e lui gli offriva il genere un po' di tabacco, e loro gli raccontavano i miti, le parentele, eccetera. Questi informatori frequentemente non vengono, naturalmente gli ospiti hanno appuntamento, ma certamente poi è una cosa complicata, questi non si presentano, si prendono il tabacco e lo sanno. Allora Bagliossi si infuriava e usava dei termini nei confronti dei loro tedeschi che sono esplicitamente nazisti. Non solo le minacce di morte, di spaccare la testa, di impulsano, insomma tutta una serie di cose che nel diario, nel senso proprio, scusa, nel libro di Cattolao, nel senso proprio preciso, di nato perentoso, non ci sono. E poi ci sono le cose. Malinowski era polacco, dicevo, e cattolico, quindi aveva un problema con le donne, insomma, il problema ce l'abbiamo in tanti, ma lui aveva un problema con la madre, con la fidanzata e con le donne grandissime. La madre, perché lo guardava sempre, ricordate che aveva visto un film di Woody Allen, era un film in cui c'era sempre la madre morta che lo guardava dal cielo, non so se avete presente. Ma io sono uguale, stava nelle sue proprie e la madre lo guardava e lo giudicava. Quindi lui era pieno di complessi di colpa che gli chiedevano dalla madre, il cui occhio, come quello di Dio, lo dice e lo scrive, mi sento sempre osservato da Dio, Dio mi guarda costantemente, così come la madre. E dicevo che le donne tobriandesi avevano, all'epoca, diciamo così, non lo so, avevano un tipo di sessualità molto diversa da quella occidentale, specialmente polacca dell'epoca. E vi dicevo che le culture matrilineare hanno delle differenze, una di queste differenze in genere è un comportamento sessuale più libero. Per esempio, le tobriandesi facevano una festa, gli tobriandesi facevano una festa. In un periodo dell'anno, durante questa festa le ragazze sceglievano i loro partner e poi andavano a fare i loro affari separatamente, erano loro ragazze che sceglievano. Le tobriandesi andavano in giro praticamente nude, in verità lui dice che erano nude, ma noi sappiamo adesso che non sono nude, perché dal punto di vista tobriandese, se hai anche un semplice gonnellino, hai dei tatuaggi, hai dei braccialetti, degli ornamenti in testa, non vuol dire che sia nudo, il corpo è un corpo culturalmente presentato. Come le nostre vedeva nude, e vedendo le nude, vedendo le giovani, insomma, probabilmente aveva un rapporto di eccitazione nei confronti di queste donne, e scriveva delle cose molto violente, anche rispetto alla sua fidanzata, se avessi violentata un giorno, probabilmente adesso sarebbe mia. Capite? Quelle ragazze sono animali che muoiono gli anni, insomma, dice delle cose che veramente sono esattamente il contrario, ecco, di quello che lui scriveva nel libro, che comunque eliminava, autocensurava tutto questo. E poi c'erano le sue soggettive. Per esempio, questa immagine è un'immagine di grande interesse etnografico, è etnografia dell'etnografia, che possiamo interpretare molto brevemente, lo possiamo interpretare. Allora, in primo luogo, la prima cosa è chi ha fatto la fotografia. Non è scritto, ma il nostro non dice chi l'ha fatta, se l'ha fatto un altro tobriandese o l'ha fatta un altro suo amico che era fuori. Ma vedete lui come si comporta. Lui, prima di tutto, è tutto vestito proprio come se si fosse vestito per fare un'operazione di teatro, per rappresentare se stesso come antropologo. Lui si rappresenta in questo modo, vestito tutto di bianco, gli occhiali da sole, le mani sui fianchi, e vedete un piede in alto e in basso, proprio esattamente come si colloca un cacciatore all'epoca di fronte a una preda. E la preda è chiaramente il tobriandese. Lui lo guarda, lo fissa, così come si fissa appunto una proprietà. Ma come se il tobriandese, non solo il tobriandese, come se le sue droghe in qualche modo appartenessero a lui. Ecco quindi una fotografia in cui una rappresentazione di un dominio, sei un oggetto di ricerca, oggetto di ricerca, non soggetto, in questo modo lo rappresenta in un modo insomma, esemplare. Non solo, nel diario Malinowski dice questo: vorrei vedere le mie labbra, il mio viso, visto di profilo, e baciare le mie labbra. Adesso, al di là del suo significato, entriamo dentro, diciamo, sull'intimità, è che queste pulsioni erotiche anche di un narcisismo molto forte trovavano come sbocco un testo, un diario, che non doveva far parte delle ricerche. Allora, la domanda che si sono fatti gli antropologi, alcuni antropologi, a partire dal 67, ma allora, dicevo, dov'è la verità? Qual è il limite dell'antropologia? Sarà l'emozione dell'antropologo, la sua soggettività, i propri desideri, le proprie rabbie, le frustrazioni, il dolore, fa parte della ricerca o deve essere escluso? La ricerca deve essere semplicemente la rappresentazione funzionale di un rituale, di cura straordinario, e tutto il resto? Possibile che la soggettività emotiva e non solo i lati oscuri, il tiro adesso ci vuole, penso che ci va bene anche voi in testa, il cuore di Tenebra dove sta? C'è un cuore di Tenebra dell'antropologia, anzi dell'antropologo? La risposta è sì. C'è un cuore di terra, c'è un heart of darkness dentro l'antropologia. Questo cuore di tenebra è la soggettività. E il cuore di terra, la soggettività, non è esplicitata, trascritta, non è parte della ricerca sul campo. La ricerca sul campo ha come limite la propria soggettività. Lì diventa chiaro. Cioè, se avete seguito il ragionamento, si afferma ancora una volta con estrema chiarezza il dualismo pubblico-privato. Pubblico è diagonale, diario è privato, sono affari miei. Ma l'oggettività è l'isola propria, la soggettività sono io. Uno è il funzionalismo, l'altro sono le emozioni. Ma può funzionare così la ricerca? Può funzionare una ricerca che elimina le emozioni, le rabbie, i desideri, la soggettività, i lati ambigui in cui io difendo il relativismo culturale a livello pubblico e poi sono razzista e sassista? Può funzionare così l'antropologia? Non solo l'antropologia, posso dichiarare dei valori bellissimi e poi praticare la solita, stavo dicendo la faccia, la solita me. Posso fare questo? Posso continuare a vivere in questa scissione? La risposta di questa minoranza antropologica è stata chiarissima: no, non si può continuare così. La soggettività, e qui gran parte di Weber, c'erano gli antropologi, naturalmente, la soggettività dell'antropologo è parte costitutiva della ricerca sul campo. Questa è la risposta attuale, contemporanea. La soggettività è parte costitutiva della ricerca sul campo, dell'antropologo, dico, non solo dell'altro. Quindi quando vi ho detto di intersoggettività, vi ricordate che ho presentato l'antropologia come intersoggettività. Allora, l'intersoggettività è appunto questa, la soggettività tra lui e l'altro. Capite? Perché altrimenti l'altro diventa oggettivo e lui non c'è, è sparito, cioè c'è solamente come l'antropologo che sta sul campo, ben vestito, con gli occhiali da sole, che fissa la sua conquista. In questo senso la fotografia tradisce l'oggettività funzionalista di Malinowski. È al di là, diciamo, un potere semiotico, se vogliamo dire, e anche etnografico, che va al di là, capite? Così come le altre. Questa è la più esemplificativa, perché sta di profilo, come dicevo. Ma anche le altre, guardate questa. Questa è interessantissima per tanti punti di vista. Ma ancora una volta lui, io non credo che però si stesse sempre visto di pianto quando sta in un certo dottor Verdese. È meglio che tossisce e stai qua che tossisce e stai a casa. No. Ecco, qui vedete, il Dantavolo sta facendo osservazione partecipante. Prima, la prima era l'affermazione dell'antropologo che fa la disciplina. Qui è osservazione partecipante. Vedete, ci sono degli strumenti, tutti stanno seduti, anche lui sta seduto con gli altri e partecipa. Qui lui raccoglie le informazioni. Vedete, qui è quanto abbiamo detto prima, lui si fa programmare esattamente come ha detto. Lui sta insieme ai suoi informatori e sta domandando. Le cose più complicate sono i rapporti di parentela, sono complicatissime, a parte perché anche i nomi programmati sono un po' complicati dal punto di vista del nostro sistema, per cui lui sta interrogando, sta domandando all'informatore. E questa, io non l'ho detto, a me mi emoziona sempre abbastanza, perché questa, non so, la mia sensazione è come se lui certo dice che l'antropologo sta solo, no? Questa è una cosa che veramente continua. Il lavoro dell'antropologo è una buona solitudine, no? Stare in solitudine è un momento fondamentale, io non l'ho detto prima, ma il nostro non lo dice comunque, ma la ricerca sul campo funziona meglio quando si sta soli. E quando si sta soli, che vi dicevo, le emozioni trovano una soluzione un po' più complicata. Quando si sta in due, tre, in quattro, tutto un po' più facile, diciamo. Da soli la solitudine è il momento in cui la tua soggettività esce, non la controlla. Allora, questo aspetto della solitudine, qui secondo me, non so se guarda, poi tra l'altro qui sta sopra, vedete, non prendete, stanno tutti sotto, li vedete bene sotto? Stanno tutti sopra, qui sta sopra, ma sta sopra. Adesso sono un po' cattivo, ma qui mi sembra proprio Kurz, sembra proprio una persona, Kurz nel romanzo di Cuore di Cuore di Tenebra, è questo militare che prende sul serio le direttive occidentali e si fa Dio, diventa Dio. Qui lui sembra veramente che sta in una meditazione, no? Sta un po' penato, sta quasi volando, si sta divinizzando e pensa. Adesso sono un po' cattivo, però certo che ci sono elementi che ci lasciano interdetti e ci fanno pensare al significato profondo delle fotografie. Perché io mi fotografo tra l'altro? Perché io faccio che qualcuno fotografi a me, insieme agli altri. Ma qui il soggetto della rappresentazione è lui. E allora, uno dei motivi che stavo affermando è io devo attestare che sono stato là. Se no chi ci vede? Una delle domande che può sembrare strana, cosa genere, ma no, si torna in Europa, vabbè, poi lui si è andato negli Stati Uniti, ma chi lo dice che è veramente vero che è stato lui là? Allora, il problema di essere stato là è il problema della fotografia. Quindi la fotografia non è solamente uno strumento della ricerca visuale. La fotografia attesta e legittima il fatto che io sono stato là e lui è stato là. Qui rappresenta la presenza indiscutibile sul campo. E quindi la fotografia, anziché il metodo, diciamo così, è un metametodo di ricerca, cioè è più per voi che per lui. Noi stiamo facendo ricerca su lui, ha fatto la ricerca, gli è chiaro? Io so, noi, io, stiamo facendo ricerca sul modo in cui nostri ha fatto la ricerca. Questa è la meta ricerca. E qui abbiamo, a me sembra abbastanza evidente che la posizione che lui ha scelto, che non è una posizione appunto neutra è una posizione che in qualche modo, insomma, non solo solitaria, ma rende un po', diciamo, un po' di divino, insomma, questo senso lo zoom, adesso si vede anche meglio il rapporto con i tornandesi, queste famose case, è un rapporto che era la... Ecco l'ultima immagine di questa, mi pare sia l'ultima, ancora una volta lui ritorna anche il cappello, e qui lui compra le collane, che è un altro aspetto della parola, che le compra, a volte si comprano, a volte si fa uno scambio, no? Dico una cosa, dico tabacco e tu mi dai le collane. Per cui normalmente l'antropologo torna dalla ricerca con i bauli pieni di oggetti, che sono le cose che andranno a finire nei musei etnografici. Allora, questa è l'ultima immagine del piccolo Adamo, dei proprietari, che sono danderini normalmente di mani, qui c'è un'altra coloria di donne. Qui c'è il titolo The Darius, dove lui dice appunto, ricordate, già l'avevo detto, voglio essere il Conrad dell'antropologia, e qui nasce il problema. Certo, il diario e gli Argonauti è un libro straordinario, ma Conrad in qualche modo riesce a dare una soluzione letteraria alla sua soggettività. Probabilmente Malinowski non c'è riuscito, perché Malinowski scinde in due testi la soluzione letteraria o narrativa della sua soggettività. Argonauti e Darius. In questo senso, molto probabilmente e incredibilmente, Malinowski non riesce a essere il nuovo Malinowski, e il cuore di Tenebra probabilmente, come dicevo, appartiene a lui. Adesso non è che appartiene all'antropologia, all'antropologo Malinowski, appartiene a tanta antropologia. Tanta antropologia si è costruita censurando, eliminando la propria soggettività e parlando dell'altro oggettivamente. Questa è una dialettica perversa. Parte insomma è tutta la dialettica, ogni dialettica è perversa, perché la dialettica sempre cerca la sintesi, ma questa dialettica tra l'oggettività dell'altro e una soggettività scalita mia è veramente un fallimento, se volete, dell'antropologia. Cioè, un fallimento parziale, se siamo più delicati, un fallimento parziale. Per cui la mia conclusione è Malinowski apre una via, la via dell'etnografia, la via dei concetti fondamentali, ma nello stesso tempo non la risolve. Questa è la conclusione, secondo me, almeno attuale, non solamente mia, ma di diversi antropologi. Lui apre la via dell'etnografia, ma non la risolve. Allora, per risolverla, il problema della soggettività e delle emozioni diventano uno dei problemi dell'antropologo. Io adesso è fondamentalmente una soluzione dell'etnografia. Certo, non è che c'è una legge che cerca una soluzione, però secondo me c'è qualcosa di oscuro in Malinowski, perché non è tanto la soluzione, è che qui c'è una parzialità, ora tutto è parziale, sono le prime assunzioni. Però la parzialità di Malinowski è camuffata da oggettività. Lui la rappresenta oggettiva, la sua parzialità. Non dice, io sto lavorando parzialmente non è proprio. E allora faccio questo, però la dimensione con le emozioni non ne voglio parlare, per motivi etici, non so. Non dice questo, qui autocensura l'emozione. Capite? Allora, il fatto che lui abbia autocensurato, eliminato tutto quanto coinvolga la sua soggettività è diventato il problema dell'antropologia. E questa prospettiva che il soggetto, che poi è una risposta alla domanda che ha fatto lei, cioè la soggettività dell'antropologo è parte della ricerca, che è la soluzione a questo. Va esplicitato l'antropologo studiando anche se stesso, facendo anche il termine per la parola dopo, facendo anche un'etnografia del sé. Ricordate questo termine, è importantissimo. Facendo anche un'etnografia del sé, facendo un'etnografia del sé, tenta di dare una soluzione diversa a questo problema. Io sono convinto che qualsiasi cosa voi facciate, gli studi, le tesi e le professioni in futuro, la vostra soggettività sarà parte della ricerca e troverà una soluzione giusta se voi sapete fare questo difficilissimo, perché è difficilissima la relazione, di mettere una parte almeno della soggettività dentro la ricerca e non fuori. Per questo, secondo me, l'antropologia vi addestra, vi vorrebbe addestrare fin dall'inizio a non eliminare la vostra soggettività, ma esplicitare durante le vostre ricerche, gli esami, le tesi, le tesine, almeno in antropologia, in altre materie sono differenti, ma è un momento in cui va esplicitato. Guardate, intanto il cinema è grandioso per questo, per cui la soggettività del direttore di cinema, si chiama, del regista, è presente, oppure tantissimi artisti esprimono la propria soggettività in un modo che è significativo, non è più un'opera d'arte che sta là. Magari parleremo meglio nella seconda parte di artisti, artiste contemporanee, in cui la soggettività dell'artista è lì, è presente, è parte costitutiva di un'esperienza d'arte. E così deve essere, secondo me, parte costitutiva della ricerca etnografica, la soggettività dell'antropologo. È così, io la vedo così. Sono convinto. Sono convinto che continuare a eliminare la propria soggettività si riproduce un tipo di dualismo che veramente è arretrato. Questo è. Ci sono altre domande su questo, altre vostre osservazioni. L'esperienza, una domanda su questo, cioè l'esperienza è un caso, comunque parte da un scrittore di certo, è una prima impressione. E secondo me, dopo un viaggio, dopo aver vissuto, dopo l'esperienza, di vivere con la popolazione così, può cambiare. Cioè l'esperienza è. Cioè lui sta sul campo e scrive il diario. Poi va Scusa? Non capisco, scusa. Sì, certo, ma dell'esperienza, per il giusto, dell'esperienza è proprio eliminata la sua esperienza soggettiva. Lo diciamo meglio, vediamo se sono d'accordo su questo. Una parte della sua esperienza sul campo, la parte diciamo se più ufficiale, funzionalista, è presente, ma la parte più personale, emotiva, sessista, razzista, desideri, Dio, l'identità, lui dice io devo rimanere sempre dentro di me stesso in tutti i contesti, lo dicevo l'altra volta, però lui non ci riesce. Lui alla fine lo dirà, sono miserabile, dice. Alla fine del viaggio. Certo che è consapevole, ma Piero dice sono miserabile perché io non ci riesco. Perché tu devi riuscire a essere dentro dei contesti differenti? È il presupposto dell'identità dell'epoca, certamente, lui sta dentro il paradigma dell'epoca dell'identità. Però lui aveva l'occasione di uscire fuori, capito? Lui aveva l'occasione di uscire fuori. Cioè il fallimento suo è che non è riuscito a esplicitare questo e a tradurlo dentro il metodo. Nel metodo non c'è questo. Se lui avesse detto nel metodo, mettiamoci anche dentro la nostra soggettività, i nostri problemi, le nostre difficoltà, perché tutti poi possiamo avere elementi, magari razzisti no, però insomma un po' etnocentrici, pregiudizi, no? I pregiudizi che abbiamo. No, allora che il pregiudizio, il razzismo, il sessismo no, sia parte delle nostre esperienze, questo io l'avrebbe potuto mettere. E anche dal rapporto con Dio. Cioè il fatto che io si sentisse osservato sempre da Dio è un problema. Perché i cattolici sono così, è così. Dio ti vede sempre il cattolicesimo. Non è che ti puoi nascondere da un'altra parte. Allora l'etnografia ti nascondi da Dio pure. Tu stai là per finalmente Dio non mi vede perché sto tra i loro grandesi. Mia madre, questo è probabile. Adesso voglio dire, è probabile che una persona possa avere per tanti motivi, uno dei quali è andarsi alla loro mamma, no? Perché la mamma non diventa possessiva. Vi lascio questo esempio, tanto per. Dopo la mia ricerca tra il coloro, ho fatto una selezione tra gli studenti dell'anno scorso, voi non c'eravate, forse qualcuno c'era, e sono stati selezionati 10 studenti che loro probabilmente verranno assolutati, e insieme ai 10 studenti sono tornati nel villaggio Bologna. Beh, a un certo punto io stavo in una situazione che era molto molto difficile, adesso però non mi sto a dire, era un momento di grande difficile tensione, era un problema che non vi sto a dire quale. In quel momento arriva un missionario, non era un missionario, sono fratelli, e mi dice, Massimo, hanno telefonato con Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, chi vuole? C'è Giuseppe Garibaldi? E ci domandiamo, io mi domando, dopo un po', torna in un'altra lezione, però che mi dice il nome leggermente diverso, però. Allora decido di andare nell'altra parte, c'era cioè un'altra tele dove c'è il telefono, e vado lì e si scopre, questo non dico di niente, si scopre che una madre di uno studente era riuscita a trovare, non si sa come, questo numero di telefono, e siccome si chiama in un modo che affine a Garibaldi, non era Garibaldi, e lì hanno capito Giuseppe Garibaldi, perché lì il Brasile non è conosciuto Garibaldi, dice Giuseppe che si è sentito al telefono, detto, questa è una madre, capito? Classico esempio di mamma italiana. Per cui a volte diciamo sì, uno non è il motivo principale, ma uno fa l'altro povero anche perché le mamme sono ottime, però un po'. Ma c'è anche un'altra domanda, guarda. No, lui non è assolutamente cosciente. Lui muore nel 1942, la moglie lo tuve nel 67, quindi Magnus muore come il grande antropologo, ed è il grande antropologo, veramente è così. Però questo grande antropologo ha un limite. La disciplina si apre ma è un leader. Ma questa è anche la cosa bella, no? Io non ci trovo niente di male, io trovo bellissimo il fatto che ci sono delle parzialità, dei limiti, anzi, meno male che ci sono dei limiti, un grande antropologo, ma si apre. Tra l'altro, questo ve lo dico perché mi servirà moltissimo. Quando nasce la prima scuola, la scuola di Chicago, non so se avete già studiato la scuola di Chicago, l'avete studiato la psicologia? La scuola di Chicago, perché fa ricerca sul ghetto? Non so se avete studiato questo, ma nei libri è fondamentale. Quelli di Chicago applicano il metodo di Malinowski al ghetto di Chicago, capite? Cioè, il metodo etnografico di Malinowski, l'osservazione partecipante, eccetera, viene presa dall'isola e trasformata nel ghetto, che è come un'isola. Per cui la nascita dell'antropologia urbana, della sociologia urbana, è grazie a Malinowski. Non sarebbe nata a Chicago, la scuola famosissima di Chicago, se non ci fosse stata qualche decennio prima la grande ricerca di Malinowski, che affronta le isole proprio in termini funzionali, capite? E perché vi ripeto tutti questi concetti che vi ho detto prima, ricerca sul campo, etnografia, osservazione partecipante, macchina fotografica, per esempio, li applicano i sociologi al ghetto. Ma i sociologi al ghetto, questa grande e bellissima ricerca che fonda la sociologia urbana, ma ci stanno le condizioni soggettive? No. C'è il rapporto tra emotività, rabbia, i sentimenti dentro l'esperienza che si trascrive? No, non ci sono. Ci saranno? Deviati. Il problema, tra l'altro, domanda è che i sociologi, adesso non voglio dire, ma i sociologi, il diario, l'antropologo, il diario, il taccuino, sono parte veramente della loro esperienza. Il sociologo, adesso magari c'è, lo direte dentro anche quando studiate di sociologia, se il sociologo c'ha il diario, se no non c'ha il diario. Cioè l'antropologo sa, la ricerca va da solo, il sociologo non va da solo in genere. La cosa è solo in un contesto straniero, isolato, ma il nostro era sempre paura di morire, beve e usava come medicina d'arsenio, piccole dosi d'arsenio per guarire, era un ipocondria, come si dice, pensava non per morire, no? Poi diceva, è strano, adesso pensi di essere strano, come se droghe, no. Però diciamo, la voglia della soggettività, della solitudine, dell'esperienza proprio isolata, sta nell'antropologia. I sociologi hanno un altro tipo di lavoro, per cui a Chicago non c'era motivo di venire via, non c'era motivo. Infatti si trovano spesso tanti diari di antropologi, ma voi conoscete il diario di un sociologo? C'è tanto. Pensate a Max Weber che scrive il diario. Lo fa Max Weber. E Max Weber è più o meno contemporaneo di Malinowski e lui fonda la sociologia. Capite? Però Malinowski, scusate, Max Weber è più o meno simmetrico, anche lui esclude tutto quanto è soggettivo. La cosa che comunque vi può interessare, però penso, io sono un stesso che la cosa che è interessante, che spero a me poi interessavo normalmente, è che l'antropologo di cui vi parlerò dopo, che è Gregory Bateson invece aveva come fuoco di ricerca proprio l'emozione, in un altro senso, però aveva l'emozione. Allora abbiamo questa bizzarra situazione, sempre in Gran Bretagna, Fraser è il grande maestro sul tavolino, Malinowski è nuovo, ma Fraser fa l'introduzione a Malinowski. Malinowski diventa evidentemente il faro dell'antropologia, perché veramente Fraser è l'Ottocento, no? Malinowski è il Novecento. La generazione successiva è Gregory Bateson. Penso che introduco solamente questo, parte per fare alcuna ricerca, lui altro prende la madre. Ah, però questo non ce l'ho pensato. Gregory Bateson, uno dei motivi per cui parte è perché c'è un problema. E il problema si chiama la madre. A cui ha detto meglio che me ne vado a Guinea, adesso Guinea piuttosto rimanere lì perché mi sta costringendo a fare quello che vuole. Io non ho voglia che quindi me ne vado. Quindi il motivo della madre è presente nel Benson in modo straordinario. Allora, Benson dirà che il momento centrale della sua ricerca lo farà tra gli Yatabud, vicino alle sue proprie, in Nuova Guinea. Penso dirà che sono le emozioni. E sapete che dirà Mike Austin quando lui torna e scrive il libro? Che non è un altro modo. Rifiuta di fare la premessa e dirà tu Mike Austin non sei un altro modo sulle emozioni. Dice Mike, riflettete su questo, ma Mike Austin stronca Gregory Benson perché lui può lavorare sulle emozioni, tra l'altro non le sue, ma quelle delle... Allora, vedete che c'è il funzionalismo, diciamo così, è un metodo che, scusate il bisticcio, ma non funziona. Non può funzionare il funzionamento così come l'ho presentato. E il problema del funzionalismo, la sua mancanza di funzione, secondo me diventerà chiarissimo con l'antropologo che studieremo domani, che si chiama Gregory Bateson. Va bene?